Amici di Radio Vostok, benvenuti in questo secondo episodio di Noi Arte. Oggi diamo il benvenuto a Amy Naomi. Ciao, ciao a tutti, ciao a tutte, ciao a tutto. Ciao Amy, in primis come stai? Tutto bene, grazie. Tu come stai? Tutto bene, sì. Anzi, fatti dire che sono molto contento di averti qui, poiché sei una bella figura nel mondo dello spettacolo e non vedevo l'ora di intervistarti, fatelo dire, ecco. Grazie mille, per me è un piacere essere qui e farmi, insomma, questa chiacchierata con te. Amy, parto subito col farti una domanda, ecco. Vai. Se dovessi descriverti, quindi dire chi sei agli ascoltatori, come ti presenteresti? Beh, mi presenterei dicendo che sono Amy. Naomi è un nome che mi porto dietro da un po' di tempo. E rappresenta qualcosa che sì c'è, ma forse oggi come oggi non proprio, perché è un nome che io ho iniziato a usare quando facevo spettacolo e spettacolo col fuoco. E mi definirei, penso, una creativa, perché da sempre l'arte, lo spettacolo e da qualche anno ormai il cinema fanno parte della mia vita, del mio quotidiano e fanno parte del mio lavoro principalmente, e mi voglio nutrire di creatività e di arte e di spettacolo, quindi creativa penso che sia la parola adatta per descrivermi, ecco. Quindi hai detto che comunque fa parte del tuo lavoro l'arte, quindi ciò che ti piace, ciò che di cui ti piace nutrirti, ecco, lo spettacolo entra a far parte pure del tuo mondo lavorativo. Quindi hai fatto bingo, ci sei riuscita. La tua passione l'hai fatta diventare anche un lavoro. Beh, oddio, allora ci sono riuscita, è un parolone. Diciamo che sono sulla strada, spero, giusta per riuscirci. Poi, cioè, comunque non sono una ragazzina, ho 32 anni, devo fare 32 anni quest'anno, ottobre. Però diciamo che ecco, negli ultimi anni sto riuscendo a seguire questa strada e a cercare a riuscirci poi sempre di più, sempre, cioè, comunque non dando per scontato niente, perché purtroppo in questo mondo non devi dare per scontato niente, quindi non dando per scontato niente sto comunque riuscendo a raggiungere i miei obiettivi, a prendermi le mie piccole soddisfazioni e poi fondamentalmente ad oggi a riuscire a vivere più o meno di cinema. Ok, no, mi è piaciuta molto come risposta. E hai detto appunto stai vivendo di cinema, però nello specifico di cosa ti occupi? Allora, io sono un assistente alla regia, però diciamo che nell'ultimo anno, cioè almeno l'anno scorso, a differenza di quello che ho fatto inizialmente quando mi sono affacciata in questo mondo, ho lavorato più a stretto contatto con il cast, quindi ho lavorato come assistente personale dell'attore o dell'attrice principale, oppure assistente del cast in generale, che all'interno del reparto regia funziona, diciamo, con delle dinamiche un po' diverse rispetto a un assistente, a un terzo assistente o a un secondo assistente di reparto, ecco. Ho capito, tu ovviamente hai fatto degli studi per arrivare a ciò, oppure hai incominciato, diciamo, amatorialmente? Cioè, qual è stato un pochino il tuo percorso, ecco? Beh, allora, il mio percorso scolastico, scusami se rido, mi fa un po' ridere perché io ci ho messo sette tranquilla. Anni. Ci ho messo 7 anni a finire le superiori. E le ho finite poi qua a Roma, e qua a Roma mi sono laureata in Arti e Scienze dello Spettacolo nel 2017, se non mi sbaglio, sì. E poi subito dopo ho fatto l'esame di accesso per entrare in un'accademia di cinema, la Roma Film Academy, che è un'accademia che sta all'interno degli studi di Cinecittà. E io ho fatto l'esame di un'accademia che all'epoca durava 2 anni, adesso poi vabbè è cambiato tutto, ci sono cose diverse, quindi non so bene come funziona adesso, però all'epoca durava 2 anni e io ho fatto il corso di regia, solo che appunto siccome mi ero appena laureata ho fatto l'esame di accesso per entrare direttamente al secondo anno, mi hanno preso, insomma ho fatto lì, mi sono diplomata lì e poi in realtà c'è stato il Covid, perché poi io mi sono diplomata nel fine 2019 e dopo tre mesi c'è stato il panico, quindi ti voglio fare una domanda riguardante questa cosa. Ecco, questa è forse più che domanda da intervista, è una domanda proprio che ti fa Alessio, è un mio pensiero. Io ho notato che durante il periodo del Covid può essere scontata come cosa, però oltre all'impatto psicologico praticamente che abbiamo subito tutti quanti. Io personalmente nel mio, nella mia creazione di contenuti ho avuto un forte non stop ma cambiamento. Ho avuto un cambiamento di prospettiva drastico. Cioè, se prima magari, ecco, per esempio il mio ambito può essere quello della risata, del comico, se prima il mio interesse era quello di fare la battuta e far ridere, adesso c'è stato un cambiamento, cioè adesso diciamo dal Covid, e oltre la risata cerco anche una morale, diciamo così. Non sempre, ovvio, però cerco anche. Mi piace fare il fessacchiotto, tra virgolette. Però di solito se faccio qualche spettacolo un po' più elaborato, cerco anche una morale, ecco. Perché chiaramente durante il periodo di Covid, ecco, abbiamo vissuto esperienze e io penso che le esperienze formino in maniera positiva e negativa. È successo anche a te? Hai avuto un cambio di rotta, un cambio di prospettiva, se non di rotta? Ma allora io personalmente con i social ho un rapporto abbastanza particolare un po' da sempre in realtà perché cioè, comunque sono classe 92 e sono cresciuta con MSN. Quindi partiamo da questo presupposto che magari non so qual è il target di questo podcast, però magari tanta gente non sa nemmeno che cos'è MSN. E partendo da magari Marco tu non so quanti anni No, hai no, però. no, no, c'era. Sì, ricordo i tempi di MSN, ricordo. Anzi, io avevo live più che MSN, mi ricordo. Esatto, cioè, quindi io sono cresciuta così e da sempre, cioè, tipo, per dirti, quando c'è stato il boom delle storie su Instagram all'inizio, cioè io non le ho mai fatte, penso di non aver mai fatto una storia parlata nella mia vita, in cui forse una in cui mi lamento del prezzo delle zucchine al supermercato. Cioè, Maledetta inflazione. già tipo un momento polemichetta così, però a parte questo, cioè io sui miei social principalmente condivido il mio lavoro, quindi quello che faccio, se quando sono su un progetto, cioè momenti fondamentalmente di set, in realtà il vero cambiamento per quanto mi riguarda nella mia comunicazione, cioè l'ho sentito più. Non parlando, cioè non voglio poi, non mi va adesso di entrare in questo discorso e di aprire questo tipo di discorso, Ok, però tranquillo. cioè in realtà il mio vero cambio c'è stato con quello che sta succedendo a Gaza e in Palestina fondamentalmente, cioè che da lì ho iniziato a usare i miei social prettamente cioè per diffondere notizie. A cui fondamentalmente sono, cioè, e cause a cui fondamentalmente sono vicina. E negli ultimi anni, soprattutto, cioè non tanto durante il lockdown, ma proprio successivamente, cioè non avendo mai utilizzato i social per far ridere gli altri o non so, cioè non ho mai avuto un profilo di informazione o di divulgazione su qualsivoglia argomento. Però quello che cioè, ho sempre condivido fondamentalmente, non so se si può dire in radio, però le cazzate cioè, Sì, che faccio tranquillamente. durante le mie giornate cioè, con i miei amici e poi fondamentalmente il mio lavoro. Negli ultimi anni lo sto utilizzando anche per condividere fondamentalmente cose che non, cioè, notizie su cui non sono d'accordo. Ok, invece sotto un punto di vista creativo, perché tu giustamente qua ti sei agganciato al discorso perché abbiamo parlato prima appunto della mia creazione di contenuti, ecco, sui social. Invece, al di fuori del contesto social, tu hai avuto un cambiamento, te lo sei sentito un cambiamento, magari se hai, ecco, te la metto un po' più semplice, hai un focus lavorativamente, perché tu comunque produci anche, sei, come dicevamo, ti dedichi all'arte, anche alla creazione, possiamo dire, no? Hai fatto anche corti, quindi. Sì, diciamo che quindi scusami, vai avanti, perdonami. Dicevo, c'hai una chiave, un punto di vista, e se c'è stata una chiave di svolta proprio inerente al lockdown o non solo? Magari hai detto che la situazione di attualità che stiamo vivendo adesso, purtroppo, ti ha cambiata, ecco, o comunque ha cambiato il tuo modo di vedere. Sotto un punto di vista invece tuo lavorativo, di produzione tuo, non, al di fuori del contesto social? Guarda, io personalmente cioè, cioè, gli ultimi progetti miei che ho sviluppato e che poi hanno avuto un seguito, paradossalmente ce l'hanno avuto durante il lockdown, perché un cortometraggio che ho fatto nel 2019 ha girato un pochetto durante il periodo del lockdown per dei festival e ha vinto dei premi internazionali, non cose grandissime, però comunque ha vinto qualcosa e ha girato un po'. Aspetta, aspetta, aspetta. Dico Però io tutto. ci terrei a dire una cosa. Hai vinto dei premi internazionali e dici non cose grandissime. Comunque c'è da fare un enorme applauso a questa cosa. Un plauso, Grazie, anzi, plauso, plauso. grazie, grazie. Sì, Seriamente, però grazie perché. comunque... No, dicevo, seriamente, cioè, comunque è bello vedere anche ecco, nel proprio piccolo si riescono a fare lavori così grandi e perché comunque per vincere premi e riconoscimenti hai fatto un grande lavoro. Quindi ti sei stato sicuro. impegnata. E sono su questo devo un grandissimo, cioè devo ringraziare e sarò sempre debitrice con mio nonno, che se non c'era mio nonno, questo corto all'epoca, cioè se non ci fosse stato mio nonno non l'avrei fatto sicuramente. E quindi sotto questo punto di vista mi devo cioè, ritenere super privilegiata, perché appunto non avrei avuto la possibilità di farlo altrimenti, perché non avevo una casa di produzione che mi appoggiava all'epoca. Però comunque cioè, adesso mi sento di essere totalmente distante da quella visione che avevo, cioè, nonostante comunque all'epoca avevo un obiettivo, cioè, e ho comunque, se devo pensare, un obiettivo futuro anche come regista, qualsivoglia prodotto poi andrò a fare in futuro, che al momento però cioè, non ce ne sono in programma, quindi... Cioè, sto parlando così in generale, c'è sempre stata la chiave di dire, cioè comunque la chiave, il filo conduttore per me è sempre stato cercare di andare a esprimere e soprattutto ad analizzare sotto le varie sfaccettature la tensione come emozione. E siccome può esserci tensione fondamentalmente in qualsiasi storia, da un thriller a una storia drammatica o anche banalmente una commedia, però comunque ecco il filo conduttore per me è sempre stato questo, cioè, e c'è sempre stato anche nei progetti che ho fatto quando ero più piccola, cioè magari di videoarte, Sì. che boh, magari di narrativo poco e niente avevano, cioè non c'era una storia, c'era un'idea, c'era un concept che volevo sviluppare a livello di immagine. Però sempre comunque cercando quella chiave un po' che lasciasse la persona che lo stava guardando un po' sospesa, un po' che, boh, che non sai bene come ti senti, c'è cioè qualcosa che in qualche modo anche banalmente o volendo ti turba, non so come dire, però Sì. il turbamento all'interno di una persona non deve essere, secondo me, non è soltanto negativo, no? No, Quindi assolutamente. sì. Cioè, diciamo che la chiave è sempre stata questa. Al momento, però, comunque, non è che ho progetti in futuro, ecco, miei. Li ho fatti, sì, però in questo momento, appunto, dato che dall'anno scorso, anche se al momento, per esempio, non sto lavorando, sono ferma, ma perché è un momento anche abbastanza particolare per il cinema in Italia, quindi... cioè, comunque, mi interessa anche fare altro. Assolutamente, hai toccato un punto che mi è piaciuto molto quando hai parlato della tensione e comunque detto non è detto che sia qualcosa per forza che ti turba. E, è una prospettiva molto importante, secondo me è bella, poiché noi abbiamo avuto modo nello scorso episodio di parlare con Felice Santulli in Arte Sled Wilson, che è un piccolo regista, ecco, adesso sta crescendo, sta facendo i suoi lavori. E lui, per esempio, parla della morte nelle sue opere. E lui ha parlato di questo punto di cioè, ha dato questo suo punto di vista. Lui è molto spaventato dalla morte, e nelle sue opere tratta la morte anche in maniera grottesca per schernirla, diciamo così. Quindi è bello anche come si vengono affrontate le emozioni. E che lui riesce, non è difficile dire trovare il positivo all'interno di quel contesto lì, però comunque, ecco, lo supera, lo affronta più che lo supera, lo affronta questa sua paura. Tant'è che lui ha utilizzato appunto il suo pseudonimo di Slade Wilson proprio per, come come dire, ecco, come figura oltre sé. Quindi mi è piaciuto molto questo punto di vista. Io ne approfitto anche per farti un'altra domanda proprio riguardante questo ambito. Ti domando, ecco, la tensione, hai... ma anche senza scendere nel personale, la vivi, cioè non la vivi, scusami, la tratti, poiché tu la senti come un qualcosa di tuo, vivo e vero, o ti ha sempre incuriosito in generale, come qualcosa che magari dici, no, io ho avuto attimi di tensione positivi e negativi come tutti quanti, però mi ha sempre incuriosito come emozione, ecco. No, no, sicuramente, cioè, sotto questo punto di vista, beh, se mi fermo a pensare, in realtà, cioè, forse non mi sono mai soffermata a pensare a questa cosa che mi hai chiesto, però adesso che mi trovo a farlo, sicuramente c'è, boh, qualcosa anche di terapeutico, cioè, se devo pensare alla mia vita è abbastanza pregna di tensione, cioè, direi, un'estate in passato... E ci sono stati sicuramente degli avvenimenti, cioè degli avvenimenti nella mia vita che mi hanno segnato, quindi boh, sì, cioè, è sicuramente qualcosa di personale, non, oltre che qualcosa che mi incuriosisce come spettatrice, perché se penso a cos'è che poi alla fine mi vado a cercare e mi piace da guardare, c'è cioè, sempre qualcosa, cioè, non è la commedia, sì, poi magari me la guardo, però mi piace, che ne so, cioè un racconto pieno di tensione, cioè che mi fa stare con l'ansietta che dici, oh mio Dio, adesso che succede? Cioè, questo. E se devo pensare a qualcosa che poi alla fine mi piacerebbe fare poi in futuro è lavorare su progetti così, ma non necessariamente come regista. Cioè... Diciamo, deve essere, ti piacerebbe che ci fosse quel background, ecco, quella sottotrama, diciamo così. O trama proprio, per carità. Sì, ma anche nella scelta, per esempio, ho lavorato il progetto su cui ho lavorato quest'estate, cioè l'estate scorsa, era un progetto inglese, abbiamo lavorato principalmente tutta l'estate in Kent con la regista Laura Way e il direttore della fotografia Evan Berry, che sono due persone comunque irlandesi, con tutta una troupe mix inglese e italiani. E è stato in realtà un progetto molto bello perché per la prima volta mi sono ritrovata non solo a lavorare a livello professionale con una regista donna, che è stata un'esperienza molto bella perché mi ha dato un punto di vista che ricercavo in realtà e che non ero mai riuscita a entrare davvero a toccare con mano. Perché avevo sempre lavorato su progetti con registi uomini fondamentalmente o a parte appunto progetti miei, però era una roba di completamente diversa, cioè un conto è fa un corto proprio piccoletto, cioè uscita diplomata dall'accademia, un altro conto è lavorare su un progetto comunque internazionale con una grande anche immagino con milioni di budget che di sicuro non erano le finanze che avevo a disposizione io, quindi avere quel, cioè, ricercavo quel punto di vista, mi è servito, è stato bello perché aveva una visione in realtà anche a livello proprio estetico molto vicino a quello che piace a me, quindi è stato per la prima volta un progetto in cui mi sono ritrovata davvero non solo a dire wow che figata, sto facendo lavoro che mi piace e lo sto facendo in una nazione diversa dalla mia, ma sto facendo cioè, una roba che cioè, tranquillamente, forse anche abbastanza presuntuoso quello che sto dicendo, però che sento nelle mie corde, cioè che potrei fare io questa roba, cioè per come è raccontata, sì. Per come poi alla fine è la costruzione dei personaggi, della storia, dell'immagine poi finale, no? Cioè guardavo Laura lavorare e dicevo... Cavolo, cioè ci voglio essere io poi lì. Guarda, secondo me non è presunzione, secondo me è essere consci delle proprie capacità, perché è giusto averne. Molte volte, secondo me, sì, si pecca di presunzione, ma si pecca anche di, tra virgolette, buonismo, perché se una persona... bisogna anche sapere, soprattutto nell'ambito, ecco, lavorativo, nell'ambito creativo, ecco, lavorativo-creativo, bisogna essere consci delle proprie potenzialità e di ciò che si riesce a fare tranquillamente, ciò che si ha nelle proprie corde e ciò che non si ha. E guarda, sono rimasto veramente colpito appunto come dire, dal fatto che tu abbia lavorato per produzioni così importanti, perché a volte, ecco, io una cosa che ci tengo a specificare è che come particolare, ecco, che magari le persone quando guardano un film siamo solitamente guardiamo soltanto l'attore e il regista, intanto ci sono tante di quelle figure che lavorano anche. Magari uno dice non arriverò mai a quei livelli, però per esempio c'è Amy che ha lavorato per produzioni internazionali e io ti faccio ancora i complimenti, veramente, perché è una cosa bellissima. Guarda, in realtà, cioè, a volte quando poi mi fermo, no, a pensare, dico, cavolo, tu magari 2 anni fa volevo fare, cioè, dicevo, ah, cavolo, quanto sarebbe bello, cioè, fare un film inglese o comunque lavorare su un progetto internazionale. E poi dopo 2 anni, quando lo fai, cioè, dici, ah, Madonna, ma quanto sarebbe bello lavorare sempre qui, no? Però poi non è che ti rendi conto e ti fermi poi a pensare, sì, ok, però 2 anni fa tu volevi stare, cioè, dove sei adesso, quindi... Porca Eva, no? Appunto, sì, assolutamente. Anche perché, ecco, la cosa che tenevo a sottolineare era un non guarda, ce l'ha fatta. È una cosa che tenevo a sottolineare. Non era un ce l'ha fatta e mi ce la possono fare tutti, no? È il contrario, è della serie con l'impegno. Esatto, no, perché se penso poi c'è fatta a fa che niente, proprio niente. Se penso poi a quello che voglio fare, viene da dire, non ho fatto proprio niente. Però in realtà è vero, perché cioè, se penso poi a quello che ho fatto, dico, vabbè, dai, alla fine qualcosa c'è. E Assolutamente. non è mai scontato. Se c'è una cosa che ho imparato nell'ultimo periodo è mai dare niente per scontato. Amy, guarda, ti sto scoprendo una persona davvero sempre più profonda. Infatti, oltre che divertendo, mi sta piacendo un sacco, ecco, fare queste chiacchiere con te. Anche a E me. Amy, io ti devo. Ti fa dimmi, Sta scusami. piacendo. No, dico, mi sta piacendo fare questa chiacchierata. Vai. Io ti volevo fare una domanda perché è giunto quello che io chiamo il momento didattico. Momento di oddio, Sì, è vai. bellissimo. A me piace un sacco fare questa domanda. Che Allora, questa paura. domanda si rivolge principalmente ai più giovani. Quindi Ok. proprio parliamo anche di ascoltatori di magari 13, 14, 15, 16 anni, ecco. Molte Tipo, volte. Prego. ok, no, no, dico mio cugino, faccio finta di parlare con mio cugino che ha Ok, 16 anni. perfetto. Vai. Molte volte sentiamo dire, o comunque stesso noi in primis, dicevamo, io non voglio studiare, mi scoccia studiare, non voglio studiare magari. Oggettivamente, se dovessi quantificare da 1 a 10, senza manco fare un discorso abnorme, secondo te? Perché poi io sono, lo dico perché io sono molto prolisso sul discorso educazione e quindi non voglio intasare tutto quanto il tempo a disposizione. Da 1 a 10, quanto studiare, che possa essere stato al liceo o all'accademia, ti ha aiutato? Ti è aiutata, scusami. Mi ha aiutato a fare cosa? Nella tua forma, nel tuo essere, nel tuo essere lavorativo, nel tuo essere, nella tua formazione lavorativa. In realtà lo sai che è una domanda mega difficile questa che mi hai fatto. Lo so, infatti questo è il momento Perché... educativo magico, capito? Oh, sì, cioè, perché se penso... A quello che la formazione ha fatto, cioè nel senso a quello che andare a scuola e poi all'università e poi in accademia ha fatto a me come persona, è ovvio che mi ha formato. Però se devo dire, boh, va, allora aspetta. Sicuramente andare in accademia, mi ha dato la possibilità di capire quali sono le varie figure, le varie dinamiche che poi si possono creare, si potrebbero creare in un set. Ora, un set di accademia, qualsivoglia accademia sia, non sarà minimamente paragonabile a una giornata tranquilla di set normale, lavorativa. Quindi, Assolutamente. detto questo, andare all'università invece magari mi può, cioè mi ha sicuramente fatto capire quello che volevo fare nella vita, perché la prima esperienza poi su un piccolo set, cioè ce l'ho avuta all'università, perché era un progetto che ho fatto fondamentalmente quando io ero al terzo anno, fatto da una ventina di studenti. Oltre a me era un progetto che serviva a svecchiare un po' l'immagine, diciamo così, del merchandising e dell'università in generale. E quindi tramite un professore del nostro corso, Andrea Minuz, vi ho fatto questo progetto, cioè comunque io non ho partecipato alla scrittura, ero una delle registe e poi in realtà una dei componenti della troupe, perché poi se penso a quello che ho fatto durante le riprese di questa webserie, che poi è andata sui canali social dell'università, che si chiamava Branding Love, cioè se penso a cosa ho fatto, sì, ho fatto la regia di 2 episodi su 7, perché eravamo 5 registi, però cioè, tipo mio padre si è occupato dei costumi, perché con il suo brand si è occupato dei costumi di un personaggio, io mi davo una mano a scenografia dove c'era bisogno, a camera, luci, Hai cioè, quindi fatto esperienza era un pratica po'. che dato, diciamo. Sì, cioè, però appunto era tutti un po', facevamo un po' tutto quello che c'era da fare. Cioè. Detto questo, lì io mi sono resa conto davvero, ok, io voglio vivere di questo, cioè voglio che questo sia il mio pane quotidiano. E quindi da lì ho detto, ok, vado in accademia. Quindi effettivamente io ho questa visione. Di base lo studio, ecco, ripeto la frase, di base lo studio dà una base. Sì, da una base, tipo se mi chiedi, rifaresti le stesse cose che hai fatto, ti dico no. Ok, una risposta Farei onesta, mi è piaciuta. un altro percorso per arrivare a fare quello che vorrei fare. Che questa è una cosa che vi dico anche io a volte con il percorso che ho fatto a livello però liceale. A volte penso forse rifarei la stessa scelta, la farei diversa, non lo so, perché poi magari uno crescendo scopre passioni differenti, eh? Io partiamo dal presupposto avrei voluto fare l'avvocato, invece sto lavorando e faccio il pagliaccio. Tu stai parlando con una che ha fatto l'esame di accesso a psicologia perché voleva fare la profiler, era andata a lavorare per tipo le agenzie governative come criminologa, cioè per fare i profili dei serial killer. Poi siccome non mi hanno preso perché sono arrivata tipo 624esima al test di ammissione per psicologia alla Sapienza, ho detto vabbè, piuttosto che buttare un altro anno, segniamoci ad arte scienze dello spettacolo, visto che comunque all'epoca lavoravo, facevo spettacoli col fuoco, quindi era comunque una roba che rientrava nelle mie corde, ecco. I 624esimi saranno i primi, ricordati. Sì, Però comunque, esatto, apriamo dai. una piccolissima parentesi anche su questo spettacolo col fuoco. Circense, giusto, sì, questo è il termine adatto? Sì. O mangiafuochi, come non lo so. Oh, cioè, all'epoca, mi pare che all'epoca ci definivamo fuochisti, che era un mix fra performer del fuoco, mangiafuoco, non so nemmeno io che cosa facevamo, cioè. Davvero, se ci penso, nonostante siano passati, boh, io avevo l'ultimo spettacolo che ho fatto, penso che l'ho fatto quando avevo 24 anni, 25, e cioè, boh, fatto da roba che se penso oggi non potrei fare nello stesso modo. Però sì, se poi apriamo questa parentesi, prego, chiedimi qualsiasi cosa. No, no, era giusto per raccontarci un pochino come si vive, ecco, dal punto di vista interno. Perché io, guarda, tra virgolette, ne approfitto perché qualche tempo fa c'è stata una rivolta cioè rivolta, diciamo, figurata, sia sotto un punto di vista social, anche sotto un punto di vista anche pratico. Venivano molto boicottate le figure circensi, ma non penso i fuochisti, più che altro proprio il circo in generale per via dello sfruttamento degli animali. Però tu non penso tu abbia vissuto quel periodo, comunque non ha toccato anche te, giusto? No, ma soprattutto io non ho mai fatto, cioè nel senso non ho mai lavorato nei circhi, io lavoravo nei locali Ah, principalmente, ok. quindi cioè, ho fatto tipo, che ne so, matrimoni, cene aziendali, cioè, eventi privati, feste di compleanno, ma anche, cioè, tipo qua a Roma ho lavorato in un sacco di locali, cioè discoteche, proprio, cioè locali in questo senso, quindi discoteche o comunque, boh, tipo al Goa, a Rashmond, ma ti sto parlando appunto di 13 anni fa. Io mi sono gasatissimo con questa cosa, ma voi effettivamente mettete benzina in bocca, alcol in bocca? No, allora, in realtà ci sono va vari modi per fare la sputata col fuoco. Io Primo è all'epoca. diventare un drago, immagino. Sì, il secondo sicuramente non è la benzina, perché la benzina non è il materiale che viene utilizzato, e viene utilizzato quello che si chiama petrolio bianco lampante, che è un petrolio comunque raffinato, infatti è trasparente, molto oleoso, oppure ci sono tipo poi anche altri vari liquidi che puoi utilizzare per fare spettacolo a seconda di quello poi che devi fare, perché poi c'è l'acqua di fuoco che è una roba che è stata creata apposta, che dicono che è meno tossica, però io personalmente non l'ho mai utilizzata perché mi trovavo bene col petrolio, con tutti poi gli annessi, cioè le controindicazioni che Sì. comunque sputare il petrolio bianco lampante può comportare, quindi sì. Immagino. Dai, io ne sono sempre rimasto attratto, però non mi sono mai avvicinato. Anche se sono rimasti due capelli in testa, vorrei evitare di bruciare anche quelli, praticamente. Guarda, io all'epoca quando facevo spettacolo, vabbè, adesso ho i capelli alle spalle, normali. All'epoca avevo i dread lunghi che mi arrivavano, cioè i Anch'io li rasta lunghi. avevo quando avevo i capelli. Mi arrivavano tipo quasi praticamente in fondo alla schiena. E tipo la prima volta che ho fatto spettacolo, siccome mi spaventavo, cioè perché sì, in parte cioè quei rasta erano miei, però siccome poi erano stati aggiunti anche delle extension, cioè, che comunque erano sintetiche, non è che erano fatte di capelli veri, erano rosse, e siccome mi spaventavo, ci ho messo, sai, quella velina che viene utilizzata tipo boh, quando c'è dai pompieri, Sì, ok, ho in presente, caso. ok. Quella velina traspaccia leggerissima, un po' termica, che comunque non ti fa bruciare. Quindi, prima volta ho utilizzato questo. Quindi, mi ricordo che eravamo in 5 a rotolarmi rasta intorno a questa roba, cioè questa cosa intorno ai rasta. E poi, dal secondo spettacolo in poi, ho detto vabbè, stagnola. Quindi, io da lì tutti gli spettacoli che ho fatti li ho fatti con la stagnola in testa. E un po' perché poi alla fine mi ero creata il personaggio, quindi ci stava, ecco, da lì Naomi. E torniamo al discorso di prima. E poi invece, cioè, era anche una questione di sicurezza, perché Ah, comunque mi indubbiamente, io la spaventavo, penso in primis. mi bruciavo i capelli, cioè diventavo pelata in un attimo, quindi ecco, avrei evitato. Allora, Naomi, io vorrei adesso concludere con il momento forse più romantico, più filosofico, ecco, di tutta quanta questa chiacchierata. Torno serio, aspetta, mi tiro uno schiaffone in faccia off camera. No, no, no, schiaffone no, la violenza sempre vai. Ti chiedo questo e concludiamo. C'è un messaggio, frase, qualcosa che vuoi lasciar detto agli ascoltatori in generale? Che può essere sia legato al mondo dello spettacolo o meno, cioè qualsiasi cosa che tu ti senta da dire, ti senti di dire. Allora, io mi ricordo che quando ero a scuola, da qualche parte, ho letto questa cosa, che è le idee oltrepassano, ho letto questa frase, che è le idee oltrepassano i cancelli. E questa frase mi ha sempre affascinato, ed è un po' quello che mi ha sempre spinto poi a fare quello che ho sempre, cioè qualsiasi cosa ho fatto, cioè che la mia idea di mondo, la mia visione del mondo, la mia idea di lavoro, di quello che è l'arte, cioè la mia idea di qualsiasi cosa, può oltrepassare tutto, anche un cancello. Quindi, se c'è una cosa soprattutto che serve lavorando nel mondo del cinema, è la tenacia. Perché tipo Assolutamente. in questo momento appunto che, cioè comunque qualche mese che sono ferma, cioè penso che probabilmente se mollassi tutto e dico vabbè sai cosa, vado a fare un'altra roba e basta, mi sono stancata di sta tarantella che non sai mai quando, come, dove, se, con chi, per quanto. Sì, assolutamente. Immagino Quindi, perché vivo cose simili, ecco, praticamente. capito, quindi c'è cioè, l'idea finale di Amy che si è presentata all'inizio come creativa, cioè qual è quella? Ok, prima o poi non so come, non so quando arriverà. E quindi sì, penso un po' tutti dovremmo avere questa idea che poi cioè, di noi stessi che poi ci spinge a fare le cose. Emi, io ti ringrazio e ti saluto davvero con le lacrime agli occhi, perché ho fatto... Addirittura. Sì, veramente, mi ha mosso tanto, quindi adesso per smuovere un poco, non lo so... Cazzo, ok, adesso ci siamo ripresi. Va E bene, ti ringrazio tantissimo per essere stata qui. grazie a te, grazie insomma a Radio Vostok che mi ha invitato a fare questa chiacchiera. Ragazzi, noi ci vediamo in un prossimo episodio e mi raccomando, ricordatevi sempre che da domani...